perché non la vediamo, ed ho già in piedi. Quindi sarà molto più facile che io possa essere qui. Naturalmente io ringrazio i professori che hanno avuto parole così lusinghiere nel presentarmi. Spero che non le metterò in condizione di essere smentiti. E ringrazio poi per l'onore che mi è stato fatto di invitarmi a parlare qui al Liceo Quadri a Vicenza, e ringrazio tutti gli studenti di tutte le altre scuole di cui mi hanno detto il nome ma non me lo ricordo. Questo capita spesso agli storici: perdere la memoria, a furia di esercitarla per studiare il passato, dimenticano le cose del presente. Qualcuno lo chiama sintomo di Alzheimer, però io penso che non sono ancora arrivato a questa condizione. E soprattutto è un onore per me avere qui davanti a me tantissimi colleghi, e mi riferisco agli studenti, perché se non si offendono io sono tornato ad essere principalmente un loro collega, sono tornato ad essere uno studente, sono un professore in pensione, e un professore in pensione, se ha studiato anche quando era professore, torna ad essere uno studente. E quindi, se non vi offendete di avere tanta distanza di età, di accettarmi ancora una volta come uno studente che studia, per citare una famosa lettera di un famoso comico che forse qualcuno avrà visto nel film, Totò, che detta una lettera a Peppino De Filippo e dice: nostro nipote è uno studente che studia, che deve prendersi una laurea e che tiene la testa al solito posto, sulle spalle. Ora, io non devo prendere una laurea, ma cerco di tenere la testa sulle spalle per ragionare da studente e continuare. Certo, uno studente che studia da 60 anni, insomma, potrebbe anche concedersi una settimana di riposo, però è un po' difficile, perché se capitano poi questi inviti così lusinghieri a parlare a studenti di molto più giovani, il desiderio di comunicare qualcosa che forse si è cercato di apprendere in tantissimi anni di studio è una tentazione che ha a che fare più col desiderio di condividere alcune conoscenze piuttosto che alla vanità di fare una lezione. Io non voglio farvi una lezione, voglio piuttosto invitarvi a riflettere con me su un evento di cui ricorrono i 90 anni. Su un evento di cui voi conoscete probabilmente già tutto. Chi non sa che fosse stata la marcia su Roma? Chi non lo sa, alzi la mano senza vergogna, perché non è obbligatorio sapere che cosa è stata la marcia su Roma, però dipende da che grado di istruzione avete e a che classe appartenete, perché la marcia su Roma si studia alle elementari, alle medie e alle superiori. Sapete tutti cos'è stata la marcia su Roma? Non vorrei interrompere la vostra conversazione, ma purtroppo devo parlare. Sono stato invitato a parlare, quindi se avete da fare conversazione me lo dite, io vi lascio conversare, ma devo assolvere il mio compito. E il mio compito è quello di parlare della marcia su Roma, che, come dicevo, è un evento che tutti conoscete. Sapete cos'è stata la marcia su Roma? La marcia su Roma è stata l'andata al potere di un uomo e di un partito che qui vedete rappresentato attraverso un'immagine. Vi farò vedere altre immagini, perché per capire che cosa è stata la marcia su Roma, le immagini di ciò che è, di quali erano i protagonisti, come erano vestiti, come si atteggiavano fisicamente, come si comportavano, è molto importante. Leggere un libro per capire la marcia su Roma non basta se non si guardano anche i volti di coloro che furono protagonisti di questo avvenimento, sia perché furono coloro i quali compirono la marcia su Roma, sia perché furono coloro i quali non seppero capire che cosa significava la marcia su Roma per lo Stato italiano e per milioni di italiane e di italiani. Quello a cui vorrei invitarvi è una specie di esercizio di riflessione su un fatto che tutti conoscete. La professoressa citava i fatti e le idee. Nella storia è difficile dire che cosa sono le idee e cosa sono i fatti, perché fatti senza idee non esistono, idee senza fatti non esistono. La storia è una successione di eventi, che possono essere eventi dovuti alle idee, eventi dovuti alle azioni, ma azioni senza idee le compiono solo gli animali. Già gli animali ammaestrati compiono azioni con delle idee che sono state inculcate dal domatore. Quindi la successione di eventi di cui noi ci occuperemo riguarda un periodo molto breve, pochi giorni, poche settimane, un anno al massimo, durante il quale avviene in Italia qualcosa che non è avvenuto in nessun altro paese europeo dopo la Prima Guerra Mondiale. Il secondo fatto sul quale vorrei invitarvi a riflettere è che tutti sanno che cosa è stata la marcia su Roma, l'andata al potere di un uomo e di un partito. E questo è un fatto. Però che cosa ha significato l'andata al potere di un uomo e di un partito? Ci sono migliaia di casi di andata al potere di un uomo e di un partito senza che se ne faccia la commemorazione. Quanti di voi sanno quante volte è andato al potere il Partito Repubblicano in America, o il Partito Gollista in Francia, o il Partito Socialista Democratico in Germania? Non è che noi commemoriamo il giorno, il mese e l'anno in cui per la prima volta la Democrazia Cristiana o il Partito Socialista Italiano sono andati al governo. Però in tutta Italia e anche in molti altri paesi del mondo si è ricordato il fatto che 90 anni fa, alla fine di ottobre del 1922, è avvenuta la marcia su Roma. Che cosa è stata la marcia su Roma? E qui il fatto comincia a frantumarsi in diverse interpretazioni. Pensate che nel 1922, quando questo signore che vede inchinarsi al re, che si chiama Benito Mussolini, il re si chiama Vittorio Emanuele III, alcuni avversari di questo signore, del partito che lui comandava, il partito fascista, definirono l'andata al potere di Mussolini e del partito fascista una opera buffa, una carnevalata, una farsa. Voi sapete che cosa è stata la marcia su Roma, adesso aggiungete alle vostre conoscenze un fatto importantissimo, che gli avversari politici di quest'uomo e del suo partito dissero che l'andata al potere del fascismo era una carnevalata, un'opera buffa, una farsa. Questo lo dicevano uomini politici e intellettuali di grande valore. Si chiamavano Gaetano Salvemini, Antonio Gramsci, Filippo Turati, che Gaetano Salvemini era un grande storico, ma anche un grande militante socialista. Antonio Gramsci era il fondatore del Partito Comunista. Antonio Gramsci e Salvemini definiscono l'andata al potere di un loro avversario una farsa, una carnevalata. 70-80 anni dopo, uno storico inglese molto autorevole ha scritto in un libro dedicato alla marcia su Roma, pubblicato 2 anni fa anche in Italia, che la marcia su Roma fu una patetica adunata di utili idioti. Alcuni antifascisti contemporanei, come il socialista Salvemini, il comunista Gramsci o il liberale Piero Gobetti, un giovanissimo liberale di 21 anni, definivano l'andata al potere del fascismo una farsa, anzi Gobetti addirittura, forse con l'idea anche di offendere gli studenti, disse era la marcia su Roma è una parentesi studentesca, è una manifestazione di allegria studentesca. E 70 anni dopo, 80 anni dopo, uno storico autorevole conferma queste valutazioni a caldo di ciò che era stato la marcia su Roma, dicendo che fu una parata, una patetica parata di utili idioti. Noi stiamo facendo un lavoro adesso di riflessione su questo avvenimento e dovete fare uno sforzo, perché per capire il senso della storia bisogna far finta di ignorare di sapere la storia, cioè voi non sapete che cosa è stata la marcia su Roma e quali conseguenze ha avuto. Stiamo vivendo giorno per giorno quello che sta accadendo e leggiamo i giornali dei socialisti, dei comunisti, quali ci descrivono quello che è accaduto oggi, 30 ottobre 1922, dicendo che è una farsa, una parata di burattini. Sono tutte parole che voi trovate nei giornali socialisti, comunisti, liberali, nel momento in cui questo signore va dal re, si inchina al re e riceve l'incarico di formare il nuovo governo di uno Stato liberale parlamentare. Sottolineiamo che questo signore diventa primo ministro in un sistema liberale parlamentare. Cos'è un sistema liberale parlamentare? Cos'era stato fino a quel momento lo Stato parlamentare italiano? Cos'era lo Stato parlamentare in Europa? Era uno Stato nel quale i governi dipendevano dalla fiducia del Parlamento e dal voto degli elettori. Si andava al governo perché la maggioranza parlamentare, che rifletteva la maggioranza del corpo elettorale, designava alcune persone a comporre il nuovo governo. E come accade anche oggi, e si spera continui a accadere anche domani, un governo che non ha più la fiducia del Parlamento o non ha più il consenso della maggioranza degli elettori, decade e loro i politici tornano a casa o tornano a fare qualche lavoro, se avevano un lavoro. Non esisteva allora in un sistema parlamentare la figura di colui il quale dice: sono stato eletto dal popolo e anche se il Parlamento non mi dà la fiducia io rimango a capo del governo. Cioè tutti i governi dei regimi parlamentari sono governi temporanei che dipendono dalla fiducia del Parlamento e dal voto della maggioranza della popolazione. Così era accaduto in Italia dal 1861. Da 70 anni in Italia, nel 1922, tutti i governi, anche quando gli elettori erano pochi, anche quando i governi erano condizionati dalla figura del re, mai un presidente del Consiglio poteva dire: non ho la fiducia del Parlamento, non ho la maggioranza dei voti elettorali, non me ne frega nulla, linguaggio che adoperava questo signore. Io rimango al potere perché ho la forza. In uno Stato parlamentare, allora e oggi, la forza non appartiene al governo o al presidente del Consiglio, appartiene allo Stato. Voi sapete che ciò che caratterizza lo Stato moderno è il monopolio della forza. Cioè solo lo Stato ha il monopolio della forza e la può esercitare per difendere la sicurezza dei cittadini. Ma i cittadini non possono organizzarsi militarmente e dire: mi devo proteggere da me. Questo purtroppo potrebbe anche accadere, forse sta accadendo, forse qualcuno vorrebbe che accada. Ma dal punto di vista delle costituzioni degli stati parlamentari, non di quelli autoritari o delle dittature militari, nessun presidente del Consiglio, nessun partito può arrogarsi il privilegio di avere una propria forza da esercitare contro gli avversari. La forza è monopolio dello Stato. La polizia, le forze armate, i carabinieri sono monopolio dello Stato e possono operare soltanto nell'ambito delle leggi di questo Stato. Così accadeva in Italia dal 1861 al 1922, così accadeva in tutti gli stati parlamentari europei che sono nel 1922 la maggioranza degli stati che governano il mondo occidentale. Quando questo signore va al potere il 30 ottobre 1922, in seguito a quella che venne chiamata allora la marcia su Roma, che oggi lo ricordiamo, non commemoriamo perché non si commemora, ma commentiamo la marcia su Roma, in tutta l'Europa predominava la democrazia parlamentare, dove i governi dipendevano dalla fiducia del Parlamento e dalla maggioranza degli elettori e dove nessun partito aveva un esercito proprio per imporsi agli avversari. In Italia questo signore che si inchina al re per ricevere l'incarico di formare il nuovo governo, dopo aver viaggiato da Milano a Roma in vagone letto, comodamente, è il capo di un partito che per andare a Roma a ricevere l'incarico di formare il nuovo governo aveva minacciato una insurrezione armata contro lo Stato. Quelli che vedete qui sono i cosiddetti, come vennero chiamati allora, quadrumviri. Ecco, noi raccontiamo la storia, anzi più che la storia, stiamo raccontando la cronaca, stiamo vivendo, fate uno sforzo mentale di trasferirvi nel 30 ottobre 1922 e sappiamo che ieri anzi l'altro ieri, anzi 3 giorni fa, dal 27, in tutta Italia c'è un partito che sta minacciando l'insurrezione armata perché vuole andare al governo. E ha istituito un quadrunvirato formato da Michele Bianchi, il generale De Bono, Cesare Maria De Vecchi e Italo Balbo, un quadrunvirato che ha l'incarico di organizzare la marcia su Roma. Michele Bianchi è un personaggio importante in questa nostra storia perché sappiamo, siamo nel 30 ottobre 1922, che l'anno scorso, a novembre del 1921, lui è diventato il segretario generale di un nuovo partito, il Partito Nazionale Fascista. Riflettete anche su questo. Sappiamo che Mussolini va al potere, ma forse non ricordiamo che il partito di cui Mussolini è il capo, allora si diceva il duce, ha soltanto un anno di vita. Un partito in un anno di vita nasce nel novembre 1921, nell'ottobre del 1922 è al potere. Noi non abbiamo, se non un caso in Italia, ma non facciamo analogie, molto più vicino a noi, che ha visto un uomo dire scendo in politica, inventa un partito e dopo pochi mesi è presidente del Consiglio. Le analogie non aiutano a capire la storia, ma è importante capire che non esisteva nessun altro paese europeo occidentale dove un partito che aveva un anno di vita veniva chiamato ad assumere il governo di uno Stato parlamentare. Ma ricordiamoci un altro fatto, di uno Stato parlamentare che nel 1922 lo Stato italiano era la quarta potenza del mondo, perché nel 1919 il Presidente del Consiglio italiano sedeva a Parigi a fianco al Presidente degli Stati Uniti d'America, al Presidente della Repubblica Francese e al Primo Ministro inglese, faceva parte dei quattro grandi che decisero nel 1919 il destino del mondo dopo la Prima Guerra Mondiale. Oggi noi non siamo in condizione di immaginare come un fatto veramente accaduto che l'Italia nel 1922 era considerata una delle quattro grandi potenze che dominavano nel mondo e che decidevano i destini del mondo. Quindi il fatto che una banda di utili idioti, con una farsa, con una pagliacciata, fossero andati al potere nella quarta potenza mondiale, in uno Stato parlamentare, in un'Europa democratico parlamentare, era un fatto eccezionale, a cui si aggiungeva, come fatto assolutamente eccezionale in tutto il mondo occidentale, che questo partito, che aveva soltanto un anno di vita, era un partito armato, che il suo capo, fate attenzione anche alla postura, all'atteggiamento, al modo di presentarsi, anche all'aspetto fisico, qui non facciamo della, cioè l'ombroso che il volto è lo specchio dell'anima, la nostra fisionomia riflette il nostro carattere, però quando faremo un confronto fra questi presidenti del Consiglio italiano negli ultimi, almeno gli ultimi 20 anni prima del fascismo, qualcosa, l'immagine, l'atteggiamento, il comportamento ci può far capire delle differenze sostanziali che accadono in Italia. Michele Bianchi, ecco, un altro fatto aggiungiamo. Si dice, e voi lo sapete, che la marcia su Roma è voluta da Mussolini, capo del fascismo. Se noi seguiamo la storia attraverso i documenti, oggi sappiamo che questo non è vero. Mussolini è il capo del fascismo, ma non è colui che vuole la marcia su Roma, cioè una insurrezione per andare al potere. Chi la vuole e la impone e la mette in atto è questo signore che oggi è quasi dimenticato, è un calabrese. Si chiama Michele Bianchi, è il segretario del Partito Nazionale Fascista, cioè ufficialmente è il capo istituzionale del partito fascista, perché Benito Mussolini era chiamato duce, ma istituzionalmente nel partito fascista era soltanto un membro del comitato esecutivo. Questo è un altro fatto importante che molto spesso anche gli storici più importanti dimenticano quando dicono che l'autore della marcia su Roma, colui che vuole la marcia su Roma, colui che impone la marcia su Roma e che la guida è Benito Mussolini. Storicamente questo non è vero, o meglio, è vero solo in parte. Cioè è vero che Mussolini, come duce del fascismo, decide la marcia su Roma, ma chi lo spinge fino all'ultimo momento a metterla in atto è Michele Bianchi. E Michele Bianchi addirittura rivendicherà qualche anno dopo, scrivendo a Mussolini, dicendo: ricordati Duce che io ho voluto la marcia su Roma, io l'ho imposta quando voi mi chiamavate pazzo, che sono stato io che ho lanciato l'idea che nel 1922, nell'ottobre del 1922, bisognava chiamare Mussolini a presiedere il nuovo governo. Cosa voleva Mussolini? Non voleva fare il Presidente del Consiglio? All'inizio no. All'inizio lui propone agli altri dirigenti liberali, che si chiamavano Giolitti, Salandra, Orlando, Nitti, propone di formare un governo in cui i fascisti siano presenti con 5 ministeri, ma non chiede di essere il Presidente del Consiglio. Quindi sappiamo cos'è stata la marcia su Roma, ma mettiamo a posto le responsabilità di chi nel momento decisivo ha avuto la capacità di dire: dobbiamo andare al potere non come ministri di un governo presieduto da un liberale, ma come ministri di un governo presieduto da un fascista, da Mussolini. Secondo fatto eccezionale, questo è un giovane che si chiama Italo Balbo, ed è colui il quale ha organizzato nella Valle Padana la milizia fascista, cioè l'organizzazione armata dello squadrismo. E sapete quanti anni ha? Ha 25 anni. Cioè a 25 anni questo giovane ferrarese organizza una milizia di partito con la quale il fascismo in un solo anno era diventato il più potente partito italiano. Ed è una novità che in Italia sia il primo paese in cui un partito armato che ha solo un anno di età va al potere non perché riceve la maggioranza dei voti elettorali, perché aveva partecipato alle elezioni, aveva avuto 30 deputati su oltre 500 non danno una maggioranza parlamentare, ma era diventato il più forte partito nel paese con oltre 300.000 iscritti, perché invece di fare discorsi, pubblicare giornali, cercare di persuadere con la parola, con la ragione, con la logica gli altri a condividere le sue idee, aveva teorizzato fin dalla sua nascita che non si convincono le persone che non hanno le nostre idee, si picchiano. Il modo più semplice, diceva un fascista, per persuadere gli altri che tu hai ragione era di rompergli la testa a pugni. Loro usavano i pugni, usavano principalmente il manganello. Come li vedete sono tutti armati di bastoni. Poi usavano anche... Questi sono i militanti del partito fascista. Ci sono anche le donne con il manganello. Si può fare un'obiezione. In Europa nel 1919-22 ci sono altri paesi dove ci sono dei corpi armati che cercano di fare politica. Questo che vedete qui è un'immagine dei Freikorps, i corpi franchi, che erano ex ufficiali e soldati dell'esercito prussiano, dell'esercito tedesco, che vengono usati in Germania fra il 19 e il 22 come strumento di lotta politica contro i socialisti, contro i comunisti. Però questi corpi militari usati in politica non formano un partito politico e non riescono ad andare al potere. Mentre in Italia, come vedete, non ci sono soltanto i manganelli, al momento della marcia su Roma i fascisti vanno in giro in molte città d'Italia, compresa Vicenza, Vicenza manda oltre 1500 squadristi a Padova per organizzare la marcia su Roma, vanno in giro anche con le mitragliatrici, con i cannoni. E questi quadrumviri con Mussolini vengono chiamati a Roma dopo aver minacciato e attuato in diverse città e province e regioni dell'Italia settentrionale e centrale una insurrezione contro i poteri dello Stato. Occupano le prefetture, occupano gli uffici postali, occupano le ferrovie, cioè paralizzano gran parte dell'Italia settentrionale e centrale perché vogliono andare al potere. Ma uno può dire, ma avevano 300.000 iscritti, 30 deputati, perché non sono andati al potere per le vie pacifiche normali? Perché un partito come quello fascista non concepiva la politica come una competizione pacifica secondo le regole di uno Stato parlamentare, ma concepiva la politica e professava questa sua concezione come un combattimento anche con l'uso delle armi, perché non ci sono avversari politici con i quali competere pacificamente. L'avversario politico è un nemico da eliminare. Questo veniva pubblicamente dichiarato e praticamente effettuato dallo squadrismo fascista, che partiva dal presupposto che il fascismo si identificava con la nazione e chi non era fascista era contro la nazione, e chi non diventava fascista o non sottometteva al fascismo poteva essere eliminato anche fisicamente. Ci sono circa 3.000 morti per la violenza fascista, per quello che i fascisti chiamavano il terrorismo fascista, fra il 1919 e il 1922, e ci sono anche dei fascisti che vengono assassinati dai loro avversari, ma la proporzione è 3.000 antifascisti uccisi dal terrorismo fascista e 408 fascisti uccisi dai loro avversari. La cifra di 408 fascisti non è dedotta da fonti strane, no, è la cifra che danno i fascisti stessi. Quindi l'Italia dal 1921 al 1922 è un paese dove si svolge una guerra civile, dove il terrorismo politico esercitato dai fascisti e in parte anche dai loro avversari, ma con minore efficacia, è lo strumento attraverso il quale Mussolini e il partito fascista ottengono di andare al potere. Non si era mai verificato e non si verificherà neanche dopo, in una democrazia parlamentare, che un partito armato senza avere la maggioranza in Parlamento, senza avere la maggioranza dei voti elettorali, pretende ed ottiene di formare il nuovo governo. Qualcuno di voi potrebbe obiettare, quelli che hanno conoscenza della storia anche dopo il 22, che il partito nazionalsocialista, il partito di Adolf Hitler, va al potere in Germania nel gennaio 1933, è un partito armato, è un partito milizia, ha usato la violenza, è vero, ma quando va al potere, quando Hitler viene nominato cancelliere, cioè primo ministro del governo della Repubblica tedesca, ha la maggioranza dei deputati in Parlamento, è il più forte partito nel Parlamento della Repubblica tedesca, è il primo partito. Il partito fascista non è neanche il secondo, non è neanche il terzo partito nel 1922, e nonostante tutto ottiene, qui vedete la sfilata degli squadristi, 60.000 squadristi, il 31 ottobre sfilano per le vie della capitale, vanno sotto il palazzo del Quirinale a rendere omaggio alla figura del re. E il 16 novembre Benito Mussolini fa un discorso alla Camera, ai parlamentari, quale un discorso che per il tono e per il contenuto non era stato mai fatto da nessun presidente del Consiglio italiano, ma mai da nessun presidente del Consiglio di uno Stato parlamentare. Perché Mussolini dichiara che lui poteva trasformare l'aula parlamentare in un bivacco per i suoi manipoli, cioè per i suoi squadristi, e dichiara che la sua chiamata al potere è una rivoluzione. Giolitti, che è stato al potere prima del Mussolini per circa 10 anni, non ha mai detto, ed era chiamato un dittatore parlamentare, non ha mai detto: io sono al potere, sono il più bravo, sono il più intelligente, sono il più potente e inizio una rivoluzione che mi consentirà di rimanere al potere anche se non ho più il consenso della maggioranza parlamentare. Mai, neanche Crispi, che era stato un autoritario, aveva mai preteso di governare senza il consenso della Camera, del Parlamento. Mussolini invece dichiara apertamente: sono qui per chiedere un voto di fiducia, se me lo date va bene, se non me lo date io ho gli squadristi fuori che vi imporranno l'obbedienza. E adesso vediamo una singolarità però. Benito Mussolini, capo di un partito armato che va al potere 90 anni fa esercitando la violenza e ricattando il re con la minaccia di un'insurrezione, è totalmente nuovo rispetto a tutti coloro che avevano governato l'Italia dal 1961. Il primo dato della sua eccezionalità, novità, a 39 anni, a 39 anni. Mai era accaduto nella storia del Parlamento dei Parlamenti europei che un uomo di 39 anni venisse nominato Presidente del Consiglio. Mai era accaduto nella storia del Parlamento italiano che il Presidente del Consiglio avesse avuto precedenti penali per vagabondaggio. Questa è la fotografia di Mussolini a 20 anni, presa in Svizzera, quando lui, socialista rivoluzionario, fa l'emigrante e il propagandista in Svizzera. Siamo nel 1902, 20 anni prima della marcia su Roma. Qualche presidente del Consiglio italiano come Crispi avevano subito il carcere borbonico, ma non era mai capitato che i presidenti del Consiglio italiano avessero trascorso un periodo in galera come vagabondi, come rivoluzionari sovversivi socialisti, e venissero espulsi, come accade a Mussolini, dalla Svizzera per ben 2 volte. Guardiamo un po' la fisionomia di questo Presidente del Consiglio che, giovanissimo rispetto agli altri, va al potere. Si atteggia, come voi vedete, a una figura tenebrosa, minacciosa. Addirittura vengono pubblicate cartoline che lo esaltano a fianco al simbolo del Partito Nazionale Fascista, il fascio. Addirittura qualcuno lo immagina come un novello Cesare. Siamo nel 1922-23, cioè agli inizi del governo di Benito Mussolini, e già la propaganda lo presenta come un uomo misterioso, un uomo minaccioso, un uomo che incarna in sé la nazione o addirittura incarna la storia di Roma. Facciamo un confronto con tutti i principali e più importanti presidenti del Consiglio italiani che hanno governato l'Italia con il consenso della maggioranza del Parlamento e degli elettori. Questo è Crispi, questo è Sonnino. Notate l'aspetto fisionomico di queste figure. Questo è Giolitti, quello che ha governato più a lungo di qualsiasi altro presidente del Consiglio, prima di Mussolini. Questo è Salandra, l'uomo che decide l'entrata in guerra dell'Italia. Questo è Boselli, l'uomo che guida il governo italiano durante la prima guerra mondiale. Questo è Orlando, colui che va a sedersi a Parigi come uno dei 4 grandi. E questo è Nitti, forse il più intelligente, ma il meno pratico, il meno politico dei presidenti del Consiglio italiano, che introduce la proporzionale per rendere più democratico il sistema politico italiano. Questo è Bonomi, il primo socialista riformista che diventa presidente del Consiglio in Italia nel 1920-21, e questa faccia di sorridente, gaudente, buon uomo, bravo uomo, proprio un nonnino, un caro nonnino, è il presidente del Consiglio italiano che deve fronteggiare l'insurrezione della marcia su Roma. Cioè, quando c'è in Italia un partito armato che minaccia l'insurrezione perché vuole il potere, chi è che lo fronteggia e che può impedire che questa minaccia insurrezionale possa avere successo? Questo uomo che ha i baffi all'insù, come un vecchio borghese, e che la notte in cui il fascismo prepara l'insurrezione armata, alle 10 di sera, è convinto che non succede nulla in Italia e se ne va a dormire. Lo vanno a chiamare verso l'una di notte perché dal Ministero dell'Interno arrivano telegrammi o notizie che in gran parte dell'Italia settentrionale e centrale si sta attuando una insurrezione armata che sta paralizzando tutti i centri governativi. E il povero Facta dormiva in un albergo a Roma, non avevano i palazzi graziosi o altre cose, il Presidente del Consiglio dormiva in un albergo, aveva soltanto due poliziotti che sorvegliavano l'albergo, e i deputati che hanno saputo che è in corso l'insurrezione fascista vanno dal Presidente del Consiglio per dire, e entrano tranquillamente e lo vedono a letto. Era ottobre, 30 ottobre, faceva molto freddo, e questo Presidente del Consiglio della quarta potenza mondiale si era infilato sotto le coperte e si era messo sulle coperte il pantalone, la giacca e il cappotto perché aveva freddo e non aveva avuto l'iniziativa di chiedere una seconda, terza coperta. Quest'uomo che non aveva l'iniziativa di chiedere un'altra coperta per ripararsi dal freddo doveva prendere l'iniziativa di decretare lo stato d'assedio, cioè la legge marziale, per impedire ai fascisti di andare al potere. E come reagiscono gli altri paesi occidentali quando il capo di un partito armato, giovanissimo, senza esperienza politica, ex rivoluzionario socialista, internazionalista, antimonarchico, che voleva massacrare la borghesia, voleva massacrare il re, voleva massacrare l'aristocrazia, come reagiscono? Questo è l'ambasciatore americano a Roma, Child, il quale il 30 ottobre scrive a suo padre e il 31 ottobre scrive al governo degli Stati Uniti dicendo: ah, qui abbiamo avuto una bellissima rivoluzione, piena di colore e di gioia, ci è piaciuta tanto. In realtà non è successo niente. In realtà non è successo niente. Tutto ritorna alla normalità. Piero Gobetti, giovanissimo, tenace avversario del fascismo, sarà più volte aggredito e morirà in Francia a 25 anni in seguito alle aggressioni subite dagli squadristi, scrive, come vi ho detto già, che quello che è accaduto in Italia con l'avvento del fascismo al potere è una parentesi studentesca, il fascismo non durerà. Gaetano Salvemini scrive, questa campana vuole che io smetta o vuole che voi torniate in classe? Nessuna delle due, suona per conto suo, anarchia. Gaetano Salvemini, Pietro Nenni, uno dei capi del Partito Socialista, Antonio Gramsci, Filippo Turati, la compagna di Filippo Turati, un enorme cervello femminile alla guida, non alla guida del Partito Socialista, ma che molti avrebbero voluto alla guida del Partito Socialista, scrivono nelle proprie lettere, nei propri diari: il fascismo è dato al potere, questa carnevalata durerà qualche mese. Mussolini è un pazzo e non resisterà più di 2 o 3 mesi al governo. Il fascismo è andato al potere per sfasciarsi. Cioè, all'indomani dell'andata al potere di Mussolini e del partito armato che con la violenza si è imposto per ottenere il governo, secondo la maggioranza dei suoi oppositori, dei partiti antifascisti, non resisterà al potere più di un paio di mesi. Cioè un movimento che si sfascerà. Però è interessante, questo signore molto bello, a suo tempo famosissime per la sua bellezza e anche per le sue prodezze in guerra. È un diplomatico tedesco, è un grande intellettuale, si chiama Kessler. Lui è a Berlino e nel suo diario scrive: oggi Mussolini è andato al potere in Italia. È successo qualcosa di simile a quello che è successo nell'ottobre 1917 con la rivoluzione bolscevica, anche se il fascismo è in senso contrario. Questo è un giorno nero per l'Italia e per l'Europa. E abbiamo un fatto completamente diverso da quello visto finora. Tutti gli oppositori italiani del fascismo non si preoccupano di ciò che è accaduto dicendo è una carnevalata, è una parata di utili idioti, il fascismo al potere non durerà più di 3 mesi, e un diplomatico tedesco osserva quello che è accaduto in Italia e dice: questo è un giorno nero per l'Italia e per l'Europa. E un giornalista americano, Wills, che sta in Italia a studiare all'Università di Roma, scrive nel suo diario: 31 ottobre, oggi è finita la libertà in Italia. Questo governo distruggerà lo Stato liberale italiano e sarà una minaccia per la libertà in Europa. In Italia la maggior parte degli avversari del fascismo sono convinti che il fascismo si sfascerà dopo 2 o 3 mesi al potere. Pochissimi, pochissimi antifascisti come Giovanni Amendola, non so se voi riuscite a notare attraverso la fisionomia anche la diversità del pensiero politico, tra i volti minacciosi in divisa armati dei fascisti e questi volti borghesi, Giovanni Amendola, un cattolico Ferrari, un padovano liberale cattolico novello Papa Fava e il sacerdote Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare. Questi pochissimi personaggi che, come vedete, non hanno nessun aspetto minaccioso, hanno molto coraggio, perché sono i 3 o 4 antifascisti quali scrivono che con l'avvento del fascismo al potere è iniziata una dittatura di partito unico che si fonda sulla violenza. E quali prove avevano per dire questo nel momento in cui in Italia il governo di Mussolini è formato non solo da fascisti ma anche da liberali, anche da nazionalisti, anche da radicali? L'argomento fondamentale è che il fascismo e Mussolini avevano trasformato l'organizzazione armata del partito in una organizzazione armata dello Stato agli ordini di Mussolini. Non esisteva nessun altro paese parlamentare dove il Presidente del Consiglio disponeva di una milizia composta esclusivamente di fascisti che era stata legalizzata. Immaginate, per fare un paradosso, che le Brigate Rosse avessero vinto in Italia dopo aver esercitato il terrorismo e il loro capo diventava Presidente del Consiglio e le Brigate Rosse diventavano la 4ª Forza Armata dello Stato, Polizia, Carabinieri e Brigate Rosse, agli ordini del loro capo. Qualcosa di simile avviene in Italia nel 1922 con la marcia su Roma. Un partito armato che è andato al potere esercitando il terrorismo contro gli avversari, invece di smantellare questa organizzazione armata, perché ormai il potere l'ha avuto, la legalizza e la mette agli ordini del Presidente del Consiglio. E Mussolini è addirittura prefigura, immagina che tutta l'Italia, fin dalla più tenera infanzia, dovrà essere messa in divisa. E questo non nel 1930, queste sono cartoline di propaganda fascista in cui già si immagina l'Italia dove esiste un partito che ha una milizia diventata milizia dello Stato e che deve militarizzare tutta la nazione, compresa l'infanzia. E dov'è la libertà di pensiero? Dov'è la libertà di organizzazione? Dov'è la libertà di stampa? Se fin dalla tenera infanzia si è obbligati ad essere giovani soldati di un partito al potere, agli ordini del Presidente del Consiglio. E c'è anche un altro fatto eccezionale che avviene esattamente un anno dopo la marcia su Roma. Nell'ottobre del 1923 il presidente del Consiglio, duce del partito fascista, capo della milizia fascista, che si è affiancata alle altre polizie dello Stato, decide che il suo avvento al potere deve essere celebrato come un grande evento nazionale, come una festa nazionale, perché è iniziato l'anno primo dell'era fascista. Noi abbiamo ricordato, né celebrato né commemorato a novembre, il primo anno del governo Monti. E forse non sappiamo se durerà 20 anni, non lo sappiamo, forse sì, forse no. Ma avete notato che Monti e il governo Monti hanno deciso di fare stampare una speciale serie di francobolli per dichiarare oggi è l'anno primo del governo tecnico, con Monti duce. Non solo, ma immaginate che il governo tecnico con Monti duce decide di far coniare una moneta da 20 euro per celebrare il primo anno del governo tecnico Monti duce. Sarebbe inconcepibile. Neanche Berlusconi, che è stato al governo molto più di Monti, ha mai pensato, eppure ne aveva i mezzi, di celebrare il primo anno del governo Berlusconi con un francobollo speciale, con una moneta speciale, con una parata militare che da Milano a Napoli ripercorre la marcia su Roma, rievoca la marcia su Roma, o addirittura di far volare su Roma 400 aerei per celebrare il primo anno del governo fascista, o addirittura, immaginate, Monti, La Fornero, Cancellieri, Passera, Grilli, che in divisa della milizia tecnica sfidano per l'Italia dichiarando: abbiamo il potere e lo terremo il più a lungo possibile, con il consenso se ce lo date, con la forza se lo rifiutate. Oppure che dichiarano in tutti i discorsi che fanno per tutto il 1923: l'andata del fascismo al potere è un evento irrevocabile. Cioè non è che dura fino a quando ci date la maggioranza parlamentare. No, ormai siamo al potere e con il voto parlamentare o senza il voto parlamentare, noi al potere ci resteremo il più a lungo possibile. Mentre gli antifascisti dicono il fascismo durerà 3 o 4 mesi, Mussolini dice: noi terremo il potere almeno 30 anni. E difatti rimasero 20 anni, ma allora nessuno lo capì. Nessuno lo capì tranne questo signore che insieme a Sturzo, Papa Fava, Amendola, capirono che un partito armato che diventa governo in uno Stato parlamentare e conserva le sue milizie armate per rendere irrevocabile l'andata al potere e che celebra il primo anno al governo come l'anno primo dell'era fascista, anche se esiste ancora in Italia un sistema parlamentare, anche se esistono ancora i partiti, la stampa di opposizione, sanno che da quel momento lo Stato parlamentare basato sui diritti del cittadino è già morto e sarà Giacomo Matteotti, che nel dicembre 1923 pubblica un opuscolo, Un anno di dominazione fascista, in cui denuncia giorno per giorno quello che sta accadendo in Italia dopo la marcia su Roma e come giorno per giorno un partito che non ha una maggioranza parlamentare di deputati suoi, ma ha una milizia armata che esercita ancora la violenza contro gli avversari, è un partito che sta uccidendo lo Stato democratico. Matteotti, 6 mesi dopo, quando denuncerà in Parlamento il metodo elettorale usato dai fascisti per conquistarsi la maggioranza parlamentare con l'uso della violenza, verrà assassinato dai fascisti. Non è il primo martire, come poi verrà chiamato, del terrorismo fascista al potere, perché poche settimane dopo la marcia su Roma, a Brescia, il 4 dicembre 1922, quando ormai Mussolini ha il potere, ha la fiducia del Parlamento, può governare con le leggi dello Stato, alcuni squadristi invadono una parrocchia, selvaggiamente picchiano il parroco e il sacrestano, e il vescovo di Brescia denuncia questa violenza come un atto barbarico. E non succede nulla. Tra il 18 e il 20 dicembre del 1922, quando il fascismo ha la polizia per imporre l'ordine pubblico, due fascisti, per ragioni private di amore, di fidanzate, di rivalità tra fidanzati, vengono uccisi a Torino, e gli squadristi torinesi, per due giorni, senza l'intervento della forza pubblica, compiono rappresaglia selvaggia uccidendo forse 11, forse 14, forse 24 persone che fossero, no, non si sa per tutti, socialisti e comunisti, che cercano Antonio Gramsci per fucilarlo. E dopo questi atti di strage che gli stessi fascisti moderati condannano, che persino Mussolini definisce un atto di barbarie disumana, cosa accade? In uno Stato governato da Benito Mussolini, che definisce un atto di barbarie disumana, una strage di rappresaglia per uccidere, per vendicare due fascisti uccisi per altre ragioni, non per ragioni politiche. E comunque c'era la polizia, c'erano i tribunali, c'erano i carabinieri. Invece si lascia la briglia sciolta alle squadre torinesi, che possono ammazzare dagli 11 ai 24, 24 è la cifra di cui si vanta il capo che ha scatenato le squadre fasciste, dice, no, ma che 11, saranno almeno 24 quelli che abbiamo ucciso. Bene, alla fine di dicembre un'amnistia evita questi assassini di poter subire la pena come assassini, perché hanno compiuto un delitto per causa nazionale, e l'amnistia li salva dalla galera. Questo accadeva nell'Italia liberale, parlamentare, quarta potenza del mondo, alla fine del 1922, dopo la marcia su Roma. Si può definire tutto questo l'effetto di una farsa, l'effetto di una parata di utili idioti, l'effetto di un'opera buffa, una parentesi studentesca che durerà qualche mese, è durata 20 anni. E allora concludo, lasciando poi a voi tutta la libertà di contestare, criticare, tranne gli insulti e gli oggetti scagliati contro di me, tutto può essere detto, tanto sono uno studente come voi, posso anche reagire alla stessa maniera. Non ho un numero sufficiente di oggetti, ma la bottiglia è sufficientemente pesante, il computer non è mio, insomma, posso reagire ai vostri oggetti, e come insulti, tutto sommato, come si diceva una volta, ho fatto il 68, è una carica di insulti, ce l'ho nella mia memoria anch'io, ma riflettere sul fatto che tutti pensavano, e lo penseranno ancora dopo il delitto di Giacomo Matteotti, quando il fascismo sembra veramente ormai sull'orlo della disfatta per la reazione morale contro un assassinio compiuto da fascisti che sono al governo, contro un deputato dell'opposizione che non aveva mai compiuto atti di violenza contro i fascisti. Ancora nella fine del 1924 la maggioranza degli antifascisti dice: il fascismo ormai è un cadavere che deve essere solo seppellito. Quel cadavere rimase al potere 20 anni e fu scacciato non dall'antifascismo coraggioso, dalla sconfitta militare che consentì agli antifascisti coraggiosi di potersi unire agli alleati e distruggere ciò che in 20 anni era stato costruito da un'opera buffa, da una parata di utili idioti. Allora noi, come persone che cercano di capire la storia senza arrivare alle conclusioni, ci domandiamo: ma come è stato possibile che nel XX secolo un fenomeno iniziato con una parata di utili idioti sia stato poi trasformato attraverso l'uso universale del vocabolo fascismo nel fenomeno che ha caratterizzato una delle più grandi tragedie del XX secolo? Come può un'opera buffa, una parata di utili idioti, generare una tragedia che dura 20 anni, se tragedia è distruggere la libertà del cittadino? E come può un'opera buffa dare origine con il suo nome a una delle grandi tragedie del XX secolo? Quello che ho cercato di raccontarvi non è una lezione di storia, ma un invito a riflettere con me su che cosa significa sbagliare nel valutare gli avvenimenti di cui siamo protagonisti, se non siamo capaci di capire se questi avvenimenti hanno in sé, come lo scorpione, una coda avvelenata. Grazie per la vostra educazione e per la vostra attenzione. L'atteggiamento e il comportamento del re. In via ipotetica noi possiamo immaginare che se il re avesse firmato lo stato d'assedio proposto dal governo, che finalmente, nonostante i baffi all'insù e il dormiglione facta, aveva decretato, probabilmente la forza legale dello Stato italiano, esercito, polizia, carabinieri, avrebbero stroncato la forza illegale del Partito Nazionale Fascista. Perché, guardando gli avvenimenti proprio ora per ora, in effetti, le squadre fasciste che si erano radunate intorno a Roma per marciare su Roma vengono bloccate dall'esercito a 80 km da Roma. Quindi di fatto la marcia su Roma, cioè come l'occupazione di Roma da parte delle squadre fasciste, così come era avvenuto nei mesi precedenti a Bologna, a Ravenna, a Padova, a Vicenza, a Forlì e in altre città d'Italia, a Trento e a Bolzano, non avviene. Di fatto la marcia su Roma non c'è stata, perché le misure, prima dello stato d'assedio addirittura, adottate dal comandante della divisione militare di Roma, bloccano i fascisti a 70-80 km dalla capitale. A Roma c'erano 28.000 soldati con cannoni e mitragliatrici che già avevano protetto la capitale con i cavalli di Frisia, cioè con il filo spinato, e presidiavano le strade e i ponti armati, e avevano l'ordine fino a quel momento di usare le armi per reprimere l'eventuale assalto fascista alla capitale. E i fascisti non possono assaltare la capitale perché tagliano i soldati, tagliano i binari, e i fascisti rimangono bloccati tra Civitavecchia, Orte e Valmontone. Quindi di fatto la marcia su Roma non avviene materialmente, mentre si scatena la violenza fascista, l'occupazione fascista nel resto d'Italia. 28.000 soldati potevano sicuramente avere la vincita su forse 6.000 forse 10.000, non si sa quanti fascisti erano effettivamente arrivati la sera del 27 e del 28 ottobre attorno alla capitale, ma noi abbiamo la testimonianza degli stessi fascisti, delle loro memorie, dei loro diari, delle loro rievocazioni, le quali testimoniano che la marcia su Roma come organizzazione militare era un disastro destinato alla disfatta. Il quadrunvirato, cioè i quattro uomini, generale De Bono, Michele Bianchi, De Vecchi e Balbo, che dovevano organizzare la marcia su Roma e concentrare quelle che chiamavano le legioni per l'assalto alla capitale, non riescono a mantenere i contatti con le legioni. E gli stessi dichiarano: noi non sappiamo niente di quello che sta succedendo a Roma, perché avevano scelto, non era proprio una grande geniale idea strategica, come quartier generale per comandare la marcia su Roma Perugia. Ora non è che c'erano i treni rapidi nelle Frecce Rosse, si andava in motocicletta senza strade asfaltate, e considerate che il buon Dio, che forse era non era antifascista ma neanche era fascista, dal 27 al 30 ottobre fa scatenare in tutta l'Italia centrale, da Napoli, dovunque si svolge la marcia su Roma, un temporale ininterrotto. Piove per 3 giorni e i poveri fascisti raccontano nei loro diari, nelle loro memorie, come avevano vissuto, senza avere neanche la possibilità di avere un panino da mangiare. È l'esercito che li sfama alla fine. Quindi, se il re avesse firmato lo stato d'assedio che imponeva l'intervento generalizzato in tutta Italia dell'esercito contro le squadre fasciste, probabilmente Mussolini sarebbe finito in prigione come capo di un movimento insurrezionale. Lo prevedeva il codice penale. Perché il re non firma? Perché mentre i fascisti stanno organizzando la marcia su Roma, i principali esponenti della classe dirigente liberale, quelli che abbiamo visto nelle immagini, li avete tutti uomini seri, severi, con i baffoni, borghesi, facce da buoni papà, buoni nonni, più nonni che papà, trattavano con Mussolini per formare un governo con una partecipazione di ministri fascisti. La novità e il paradosso della marcia su Roma, che è una insurrezione con trattative, mai si era verificata una insurrezione quando Lenin 5 anni prima era andato al potere, non aveva trattato con il governo provvisorio, aveva preso il tram, si era travestito da ubriacone, si era tagliato la barba e in tram va a Palazzo Smolli, dove stava riunito il Soviet, e lì decide che il partito bolscevico deve prendere il potere, e non c'è una vittima. Mussolini va a prendere il potere a Roma in vagone letto e tutti fanno grandi risate, però non si ricordano, quelli che ridono sul vagone letto di Mussolini, che il grande capo della rivoluzione bolscevica Lenin va a prendere il potere materialmente in tram, mascherato da ubriacone, o si finge ubriacone quando viene bloccato da una pattuglia di soldati del governo provvisorio, e prende il potere senza sparare un colpo di fucile o di pistola. Poi le immagini della rivoluzione bolscevica con le masse, quella è un'invenzione mitologica dopo, come fu un'invenzione mitologica dopo che Mussolini andò a Roma su un cavallo bianco alla testa delle squadre fasciste contro una massa di soldati sovversivi che volevano uccidere il Drago Rosso. Tutta fantasia, fantasia nella rivoluzione bolscevica, fantasia nella rivoluzione fascista. Il fatto è che il re non firma lo stato d'assedio perché alla fine, io credo, non abbiamo documenti, è rimasta oscura la ragione della sua decisione, perché se avesse firmato il fascismo non sarebbe andato al potere e forse la storia d'Italia, d'Europa e del mondo avrebbe avuto un altro corso. L'ipotesi che io faccio è che il re non firma perché, come molti dicono, voleva salvare la dinastia. Il fascismo aveva detto: noi non lo tocchiamo la monarchia, se la monarchia ci dà il potere noi la rispettiamo, e lo farà per 20 anni. Il re non firma perché non capisce come sia possibile che lui si assuma la responsabilità di decidere l'uso della forza contro i fascisti, che comunque erano il più forte partito armato nel paese, che comunque poteva provocare una sanguinosa guerra civile. Tenete conto che moltissimi fascisti erano eroi e decorati di guerra, erano generali, erano ufficiali, ufficiali che sparano contro ufficiali, generali che danno l'ordine di sparare contro ex loro combattenti. Era difficile probabilmente lei ha pensato, ma se Giolitti vuole Mussolini al governo, se Facta vuole Mussolini al governo, se Nitti vuole Mussolini al governo, e dichiarano loro, questi presidenti del Consiglio, ex presidenti del Consiglio, noi non vogliamo usare le armi con il fascismo perché il fascismo è un problema politico, non un problema di polizia, perché doveva essere il re ad assumersi questa gravissima responsabilità di rischiare anche, perché c'era, molti glielo dicono, il re chiama i generali, no? Come Diaz, l'eroe, il generale che aveva portato l'Italia alla vittoria, posso fidarmi dell'esercito se do l'ordine di sparare sui fascisti? Lo eseguiranno? Perché molti soldati dell'esercito simpatizzavano per i fascisti. Il generale Diaz dice, maestà, sì, obbediranno, ma è meglio non metterlo alla prova. Cioè gli stessi comandanti dell'esercito insinuano nel re il dubbio che se lui firma lo stato d'assedio, l'esercito sicuramente obbedirà, ma potrebbe anche non obbedire. Quindi la responsabilità di aver aperto al fascismo la strada del potere non è solo del re, ma è di tutta una classe dirigente liberale che non capisce che Mussolini non è un burattino, che il partito armato non è una parata di utili idioti, che è invece un partito armato che vuole il potere per distruggere lo Stato liberale, ma siccome loro erano vecchi, sapienti, intelligenti, non pensavano che questi giovani li avrebbero rottamati appena andati al potere. E il termine rottamazione è di oggi, ma il presidente del Consiglio Mussolini, appena andato al potere, come si rivolge a questi uomini che rappresentavano la storia d'Italia? Sono delle larve, Giolitti, Nitti, sono delle larve che non potranno mai più aspirare a governare l'Italia, ormai ci siamo noi, i giovani, e difatti li rottamarono tutti. Alla violenza del biennio rosso. Il problema è che nel 1921, a luglio, Mussolini scrive: dire che in Italia c'è un pericolo bolscevico è una sciocchezza. Cioè nel 1921, quando il fascismo scatena un'offensiva violenta che distrugge tutte le organizzazioni, non solo del proletariato, ma anche dei repubblicani, anche del Partito Popolare, cioè del Partito Cattolico Cristiano, non c'è pericolo bolscevico, non c'è più rivoluzione. I socialisti si sono divisi, i comunisti, i socialisti, i riformisti, sono sotto la violenza fascista, che solo a parte viene bloccata dalla resistenza di Guido Piccioni e degli arditi del popolo, e quindi la violenza fascista non ha più nessuna giustificazione. In quel momento i liberali, l'opinione pubblica, non accetta più la violenza fascista. Anzi, dice, ormai avete vinto. Basta, adesso smettete per la violenza e comportatevi da uomini civili. Volete vedere in Parlamento, presentatevi alle elezioni, facciamo una coalizione e per idea. La testimonianza è che persino il giornale della famiglia Agnelli, il primo industriale d'Italia, La Stampa, era antifascista. Questa complicità diventa piuttosto la complicità inconsapevole di chi non sa valutare la gravità del fenomeno fascista, e in questo i liberali si associano ai comunisti. L'Ordine Nuovo, il giornale di Gramsci, l'articolo non è firmato, quindi non sappiamo se è suo, il 27 ottobre, cioè alla vigilia dell'inizio dell'insurrezione fascista che porterà Mussolini al potere, scrive, commentando una giornata fascista di 40.000 squadristi a Napoli: è finita la farsa. Dove poteva svolgersi quella parata di burattini in camicia nera se non nel paese di Lucinella? E concludeva, il giornale di Gramsci concludeva, ormai, il 27 ottobre 1922, ormai il fascismo è in disgregazione. I liberali non capiscono la gravità della forza che hanno protetto, ma che hanno visto che ormai va al di là del loro controllo. Ma cosa fanno i capi dell'opposizione antifascista, socialisti e comunisti? Organizzano uno sciopero generale? No. Scendono nelle piazze per contrastare con fatto il comunista Bruno Piccioni a Parma per bloccare? No. I capi socialisti e comunisti, mentre Mussolini prende il treno per andare a prendere il potere a Roma, prendono il treno e vanno a Mosca per partecipare al 4° congresso dell'Internazionale Comunista. Ma non si rendevano conto di quello che accadeva? No, perché, dice Nenni, che era il direttore dell'Avanti allora, questa faccenda della marcia sulla Roma sono beghe della dittatura borghese. Tanto lo Stato liberale è una dittatura, il fascismo farà una dittatura, ma o liberali, o fascisti con la stessa cosa, al proletariato non interessa. E poi aggiungerà, qualche anno dopo, quando ormai la sconfitta è stata definita, purtroppo, al momento della marcia su Roma, nessuno prendeva il fascismo sul serio. Da questo punto di vista, se vogliamo parlare delle responsabilità, tutti coloro che avversavano il fascismo avrebbero potuto bloccarlo e impedirgli di andare al potere se avessero avuto la capacità di capire che quel fenomeno non era una banda di individui o un fenomeno passeggero, ma era una minaccia reale ed efficace per lo Stato liberale. Il fatto è che i socialisti e i comunisti volevano abbattere lo Stato liberale e esultavano quando lo Stato liberale si era tolta la maschera liberale e era venuta questa maschera da camicia nera. L'errore della complicità inconsapevole piuttosto generalizzata. E invece di unirsi per combattere il fascismo, si divisero, i comunisti e i socialisti si combattevano più ferocemente fra di loro che piuttosto di unirsi e fare opposizione al fascismo. Arrivare al potere o diciamo nel periodo del suo governo. E questo ci porta molto oltre la marcia su Roma nei successivi 20 anni. In realtà Mussolini fino all'estate del 1922 non fa nessuna dichiarazione di fedeltà alla monarchia. Il fascismo nasce repubblicano, il partito fascista non si pronuncia sulla forma di governo dello Stato italiano, ma non sono monarchici, e fa una dichiarazione di fedeltà alla monarchia molto strumentalmente soltanto un mese prima della marcia su Roma. Ma è una fedeltà ricattata, cioè dicono se il re ci porta al potere noi lo rispettiamo, se si mette contro di noi lo combattiamo, quindi è una fedeltà piuttosto ambigua. Una volta al potere Mussolini sfrutta il formalismo costituzionale di Vittorio Emanuele III. Perché? Ed è una delle interpretazioni della marcia su Roma. La marcia su Roma non fu un'insurrezione, un colpo di Stato, una rivoluzione, perché Mussolini andò al potere con l'autorizzazione del re e per l'incarico dal re. È vero, è vero. L'incarico conferito dal re, quell'immagine che abbiamo visto, è la conferma che Mussolini alla fine diventò presidente del Consiglio non perché occupò militarmente la capitale, ma perché il re lo chiamò e gli conferì l'incarico di formare il nuovo governo. I riferimenti che facevo prima agli altri presidenti del Consiglio però sono importanti per capire la totale differenza, perché non si può parlare di un governo Mussolini che nasce nella ortodossia, nella legalità, perché gli altri presidenti del Consiglio, quando vengono nominati per la prima volta, o hanno superato già i 40 anni, cioè sono persone molto anziane, che per giunta hanno anche già un'esperienza almeno di 10 anni come deputati, che hanno già avuto incarichi di governo come ministri o come presidente del Consiglio. Mussolini era deputato da un solo anno, non aveva mai amministrato neanche il comune di casa sua, non aveva nessun fascista, aveva pratica di governo. La media dei dirigenti fascisti era tra i 39 e i 25 anni. Non era mai accaduto che il re chiamasse a governare la quarta potenza del mondo a quel tempo una banda, si chiamava una banda, di giovani che non avevano nessuna esperienza di governo e che erano in Parlamento soltanto da un anno. Quindi già la prima anomalia. La seconda anomalia, tutti gli altri presidenti del Consiglio, da Cavour in poi, erano stati nominati perché designati da una maggioranza parlamentare. Mussolini, quando ottiene l'incarico dal re, ha 30 deputati e una maggioranza parlamentare che potenzialmente, essendo formata principalmente da socialisti e popolari, è antifascista. Poi accetterà e voterà per la fiducia a Mussolini, dicendo, come si è detto tante volte nella storia d'Italia, che ci deve salvare l'ambaro e il meno dei mali, tanto poi si legalizzerà. E invece Mussolini non vota nulla. Mussolini ottiene la fiducia della Camera e del Senato anche dopo il delitto di Matteotti, l'assassino di Matteotti. Il re, che è un formalista costituzionale, a tutti gli antifascisti che dicevano maestà, non è più tollerabile che un partito terrorista governi l'Italia, il re obiettava: fino a quando ha la maggioranza del Parlamento io non posso revocare l'incarico a Mussolini. Il Parlamento vota la sfiducia e io glielo revoco. Il Parlamento non ha mai votato la sfiducia a Mussolini. Negli anni successivi Mussolini utilizzò la facciata dello statuto, che era stato già modificato nella sostanza dallo Stato parlamentare italiano, ovvero lo statuto non prevedeva lo Stato parlamentare, cioè un governo che dipende dal Parlamento, ma nominato da lei. Quindi c'era una lunga tradizione di adattabilità dello statuto a un sistema completamente nuovo. Mussolini si rifarà a questi precedenti per distruggere lo Stato parlamentare, che comunque era previsto dallo statuto, e creare un regime totalitario che non era previsto dallo statuto. Quindi distrugge la sostanza dello Stato italiano mantenendo la facciata dello statuto. Però adesso sappiamo che nel 37, 38, 39, di fronte alla espansione dello Stato totalitario, cioè del regime al partito unico, i giuristi fascisti decidono che è il momento di rivedere anche lo statuto. Poi ci fu la guerra e per la disfatta militare il fascismo ebbe il tempo di eliminare, come Mussolini dichiarava apertamente con i suoi collaboratori, anche la monarchia. Senza la Grande Guerra, e soprattutto, come lei giustamente ha distinto e precisato, senza il mito della Grande Guerra non ci sarebbe stato nessun fascismo in Italia e in Europa. I movimenti fascisti, a cominciare da quello che dà origine al nome, cioè il movimento fascista italiano, nascono dall'esperienza della Grande Guerra, trasferiscono nella lotta politica, che anche nei momenti più violenti della storia dello Stato italiano era stata però sempre prevalentemente una competizione pacifica tra diversi partiti liberamente organizzati, compresi i partiti che volevano abbattere lo Stato liberale monarchico, come i socialisti, i comunisti e in parte anche i popolari, e mai c'era stato da parte dello Stato un intervento violento per impedire a questi partiti di esercitare anche la loro più spietata critica contro lo Stato parlamentare liberale. Il fascismo rivendica il diritto di trattare i suoi avversari, anche se erano patrioti, come Amendola, Sturzo. Sturzo era un cattolico popolare, era stato interventista, molti cattolici erano interventisti. Il partito fascista rivendica il privilegio di usare la violenza contro i suoi avversari, dicendo che siccome non sono fascisti, sono nemici della nazione, perché il fascismo interna la nazione. Con quale argomentazione? Perché veniamo dalla guerra, abbiamo voluto la guerra, abbiamo fatto la guerra e vogliamo difendere la guerra. Difendere la guerra significava esaltare il mito della Grande Guerra come l'atto di nascita di una nuova classe dirigente formata dai combattenti, la nuova Italia formata dai fascisti. Fu fondamentale, tant'è vero, che nella storia d'Italia riscritta durante il fascismo, il momento più importante per il fascismo della storia dell'Italia contemporanea non era il risorgimento, era la Grande Guerra. Il fascismo si rivendicava di essere la nazione italiana, di avere il diritto di rappresentare la nazione italiana e di trattare tutti gli altri non fascisti come nemici della nazione, perché riteneva di essere l'aristocrazia, come loro dicevano, della Grande Guerra. E sul mito della Grande Guerra costruiscono il mito della rivoluzione fascista. Senza Grande Guerra probabilmente sarebbe stato inimmaginabile un movimento politico che in Italia e in Europa militarizza la politica, che fa della politica una lotta armata contro gli avversari. Ma questa è la conseguenza dell'esperienza vissuta per 4 anni nelle trincee. Domanda. Le insurrezioni popolari appartengono alla mitologia rivoluzionaria del 1948. È dal 1948 che non ci sono più rivoluzioni popolari, se non in Russia nel 1905 e in Russia ancora nel febbraio 1917. Neanche la rivoluzione bolscevica, che passa per un modello di rivoluzione popolare, che avviene con la mobilitazione delle masse. Quando viene in Kran a prendere il potere a Palazzo Smoni, nessuno si stava accorgendo a Pietroburgo, a Pietrogrado, per sappiate, Pietroburgo era tedesco, la guerra era cambiata in Pietrogrado, si accorgeva che stava avvenendo una rivoluzione. Se ne legge uno la storia della rivoluzione russa, scritta da uno dei grandi accademici, forse uno degli altri più rilievi, quello che ha voluto la rivoluzione russa e l'attuale, cioè Trotsky, scritto una bellissima storia della rivoluzione russa, della rivoluzione bolscevica, basata proprio sulla concretezza dei fatti di cui lui era testimone e protagonista, descrive il modo in cui il partito bolscevico pacificamente, tranquillamente prende il potere e insiste sul fatto che non ci fu una sola vittima e che nulla avvenne come si immaginava nella mitologia delle grandi rivoluzioni ottocentesche. Le masse non sono dopo avvenne la pacificazione, ma lo è per dopo. Le rivoluzioni del Novecento, della prima metà del Novecento, non avvengono, quando vincono, mai con una mobilitazione delle masse popolari, né quella bolscevica, né quella fascista, per la quale si può fare il termine rivoluzione nel senso più tecnico. Quando una forza nuova conquista il potere e cambia il regime esistente, distruggendo tutti gli altri partiti, sicuramente compie un atto rivoluzionario. Una nuova classe, un nuovo partito che conquista il potere e crea un nuovo regime, generalmente tutte le definizioni si chiamano rivoluzione. Se poi noi diciamo invece che rivoluzione è soltanto la mobilitazione delle masse popolari che lottano per la loro libertà, allora non è una rivoluzione. Ma è difficile dire che quella bolscevica o quella tentata in Germania e in Ungheria nel 1919. Tutto parete di d'accordo sul termine, ma come dice un grande filosofo della scienza, Karl Popper, mai dimenticare sulle parole. Guardiamo i fatti. E come diceva un grande filosofo dimenticato, perché ha detto una sola frase, uno dei grandi saggi dell'antica Grecia, il filosofo Misone, il filosofo contadino, Misone Tenese, che è un grande, perché ha detto una sola frase, mai interpretare le cose partendo dalle parole, ma interpretare le parole partendo dalle cose. Quindi, per definire la rivoluzione fascista, proprio rivoluzione nel 1921,